La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Immaginate la scena, Parigi Fashion Week 2019, sfilata di un grande stilista, sala gremita, musica a volume altissimo e sulle seggioline, quelle un po' scomode delle prime file, c'è tutta gente che conta, vive dello spettacolo, le grandi giornaliste della moda internazionale, cantanti, insomma il tout Paris come si dice da quelle parti. E improvvisamente la passerella si vuota, compare un'unica modella. Ha indosso una giacca scintillante, colori dell'arcobaleno, e sotto un body color carne. Lunghissime gambe nude, stivali con i tacchi alti, stivali lunghi fino al ginocchio, fisico incredibile. Però bisogna considerare che la signora che sta sfilando ha 70 anni, entra ballando sulle note della musica, ride, scherza mica col pubblico che la acclama. Dal fondo della passerella ritornano tutte le altre modelle che la circondano, si uniscono agli applausi, tutti si inchinano a questa regina. Ascoltate il suo nome. Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave. Miss Grace Jones, super in tutto, super icona, cantante di grande successo, interprete disponibile a qualsiasi sperimentazione, super model, attrice super, perfino in un film di Bond. Una freak, come dice lei stessa, personaggio non quantificabile, non qualificabile, e imponente come levatura artistica, anche fisicamente, perché è alto 1,80 m, fa paura a molti, è sempre stata esagerata. Direi con perseveranza, sembra un po' matta, ma anche questo fa parte del suo mito. I'm schizofrenica. Sono schizofrenica. Sono tante diverse persone, tanti umori differenti, credo come tutti. Sono molto umana, assolutamente. Very much so. Insomma, non so se ci sono tante persone al mondo come lei. Spesso si veste di pelle nera, è una specie di dominatrice, di mistress, canterina, felina, zigomi altissimi, occhi piccoli, felini, sguardo mobile, grande androginia sbandierata peraltro, che però fa da contraltare a una femminilità inquietante, non riposante. Grace Jones è tutto questo e molto altro ancora. Forse non basta tutta la sua vita per riuscire a definirla tutta, se mai fosse possibile farlo. Grace Beverly Jones nasce forse il 19 maggio del 1948 a Spanish Town in Giamaica. Dico forse perché c'è un po' una cortina fumogena su tutte le sue origini e la sua cronologia. È incredibile a dirsi, ma lei viene da una realtà molto religiosa, genitori pentecostali, cioè in chiesa almeno 4 volte alla settimana, lettura della Bibbia tutte le sere, e per lavoro i genitori, che si chiamano Robert e Majory, si trasferiscono negli Stati Uniti, lasciano i loro 7 figli in Giamaica con la nonna, con il nuovo marito Peter, un uomo rigido che picchia i bambini regolarmente. Naturalmente Grace lo odia a morte, lo chiama Master P, Padron P. A volte dovevamo arrampicarci su un albero e scegliere noi stessi le nostre fruste per essere puniti. Se venivi mandato a scegliere la tua frusta, sapevi che ti sarebbe toccata. E dovevi scegliere una frusta adatta, togliere le foglie dal ramo. E poi... Credo che a quel tempo avessi 6 anni. Per me era così normale che pensavo che a tutti capitasse la stessa cosa. Insomma, cresce in un mondo senza orizzonte, chiuso, soffocante, e naturalmente vivere in questo modo ha come unico risultato quello di nutrire la sua immaginazione, come tutti i ragazzini, tutte le ragazzine, ha sogni, desideri, voglia di andare in un altro mondo, in un altro universo parallelo dove potersi sentire libera. Apparentemente è una ragazzina timida, secca, tutta gambe, che parla raramente. E dentro di lei però tutto si agita, tutto è pronto a esplodere con un unico imperativo, quello di non diventare mai come la sua famiglia. Dopo un po' Robert e Major, i genitori, cominciano ad avere una certa stabilità di vita e allora si fanno raggiungere dai figli. Loro sono vicino a Syracuse, nello stato di New York, e quando Grace arriva a 12 anni, quindi finisce le scuole in America, si diploma in spagnolo, è molto brava con le lingue, inizialmente pensa a una carriera come insegnante, però le cose vanno diversamente perché a scuola segue anche dei corsi di teatro. L'insegnante le consiglia di frequentare degli altri corsi estivi a Filadelfia e lei riesce a farsi dare il permesso dai suoi genitori. Ma incredibile, ma vero. È l'inizio della sua vera conversione, insomma, i pentecostali cominciano a essere parte del passato. E insomma, dobbiamo immaginarci questa ragazzina che per anni è stata repressa dalla famiglia, dalla scuola, da chiunque, che a un certo punto entra in un gruppo teatrale in una di quelle grandi città americane che in quel momento si stanno aprendo alla controcultura della fine degli anni 60, e così arrivano le scoperte diverse, il sesso, l'LSD, le comuni hippie, libertà assoluta. Per guadagnare qualche soldo addirittura va a fare la ballerina nei locali per uomini, insomma non la commessa in un supermercato. L'epilogo di questo periodo avviene quando, dopo aver incontrato una banda di motociclisti, lei decide su due piedi di seguirli verso New York. E a 18 anni Grace è sbarcata a New York e vuole conquistare la grande mela. Non le ci vuole molto perché ha un fisico particolare, insomma. Viene subito scritturata da un'importante agenzia di modelle. Grazie al suo lavoro comincia a conoscere i personaggi che in quel momento vale la pena di incontrare, su tutti Andy Warhol e la sua Factory. E forse sarà proprio Andy Warhol che le consiglia di sottolineare quel suo look androgeno, lui che insomma in quegli anni creava personaggi eccentrici, eccessivi, immodesti, autoreferenziali, personaggi che facevano strada. E forse è stato proprio Andy Warhol a vedere che in Grace Jones c'era la materia prima adatta. Non si tratta di essere mascolina, è un'attitudine. Del resto, cosa vuol dire essere mascolina? Potete dirmi cosa significa essere mascolina? Io semplicemente recito una parte che sento dentro di me. Io ho sempre sentito l'influenza del modello maschile della mia famiglia, un genere di uomini. Sono sempre stata accanto a tanti uomini nella mia famiglia, padre, nonno, fratelli, tutti. All'inizio il look di Grace fa sensazione, siamo negli anni 70, non è che l'androginia fosse un concetto, diciamo, inaspettato, però in quel periodo erano soprattutto gli uomini a percorrere quella strada. Primo su tutti David Bowie, che ha costruito, insomma, è partito da questa immagine androgina, ma poi c'era Brian Eno nei Roxy Music, Iggy Pop, tutto il rock decadente in qualche modo faceva capo a questa attitudine. Però una donna con caratteristiche maschili maschile non si era visto. Poi in quel momento lei, come dire, si candida da essere un maschio sexy, erotico, pelle nerissima, bocca carnosa, insomma assolutamente destabilizzante. E quando gli altri uomini la incontrano non capiscono bene, si preoccupano, non capiscono se stanno facendo la figura del macho o del gay. Insomma, Grace inizia a fare la cosa che le riesce meglio: scandalizzare. E qual è il posto migliore per poter scandalizzare? Sicuramente Parigi. E quando le propongono di andare in Francia per lavorare, lei coglie l'occasione all'istante. Insomma, è a Parigi la Ville Lumière, la luce accesa perennemente, e lì arriva il secondo colpo d'ala importante della vita di Grace, perché Parigi è un colpo al cuore, probabilmente lo è per tutti. Lei, quando atterra sul suolo francese, però capisce che quella è casa sua, le va tutto benissimo da subito, piace agli stilisti francesi, che a differenza degli americani non hanno quella pruderie, diciamo, sulla sua ambiguità, anzi sono divertiti da questa androginia della Jean, soprattutto Saint Laurent, Claude Montana, Azzedine Alaïa diventano i suoi fan, come molti fotografi, tra tutti Helmut Newton. Quando facevo la modella, mi chiamava tutto il tempo per lavorare, e poi quando arrivavo lì mi diceva: «Oh mio Dio, dimenticavo che hai le tette piccole», e mi rimandava indietro. Poi abbiamo finito per lavorare insieme parecchio e le mie tette non avevano più importanza perché amava le mie gambe. Insomma, negli anni 70 Grace Jones come modella ha ampiamente superato la fase promettente e gira per i locali alla moda del momento. Divide un appartamento con una certa Jerry Hall, che sarà moglie nell'ordine di Brian Ferry, e poi a crescere Mick Jagger e poi Rupert Murdoch recentemente. Vive anche con Jessica Lange. Non era male essere amici di quella gente lì, andare in quell'appartamento. Va a cena con Lagerfeld, con Giorgio Armani, finisce nelle copertine delle riviste più importanti, compresa Ebony, che è una rivista statunitense dedicata alla cultura afroamericana. Odiavo mio padre perché era così severo, ma ora lo amo perché a causa mia non lo hanno fatto diventare vescovo per molto tempo. Ci fu un articolo sulla rivista Ebony su di me, con una fotografia di me e tutta la famiglia attorno al pianoforte. Mio padre non era presente, ma il fatto che la foto fosse pubblicata in una rivista è stato grave. Per loro mio padre avrebbe dovuto tagliarmi via, come nella Bibbia viene detto: «Se il tuo braccio destro ti offende, lo taglierai». Ma lui disse: «Non mi interessa, sostengo mia figlia». Però questa cosa lo danneggiò. E la carriera di Grace invece è tutt'altro che danneggiata. Continua ad andare a gonfie vele. A un certo punto non le basta più, ha troppa personalità per rimanere confinata su una passerella. Ha una bella voce lei, e quindi la Island Record le propone un contratto nel 1977. E in piena era punk esce questo album, si chiama Portfolio, me lo ricordo benissimo io. È la copertina creata da un artista della rivista Interview, e richiama un po' quelle copertine molto glamour, viene registrato a Filadelfia, e tra i brani, che sono quasi tutti cover, c'è una canzone che ha un carattere veramente sorprendente. La canzone era La Vie en Rose, che era un cavallo di battaglia di Edith Piaf. Grace e il suo team hanno l'intelligenza di cambiare l'arrangiamento. A tutto il resto ci pensa la voce di Grace, che è talmente diversa da quella della Piaf da non temere confronto. Ero all'oscuro di Edith Piaf, non l'avevo mai sentita cantare o ascoltato La Vie en Rose prima d'allora. Quando dissi alla gente che la stavo registrando, tutti risposero: «Oh mio Dio, non hai paura che la gente ti butterà i pomodori addosso?» Ma io feci bene i compiti. In un certo senso penso che comunque è stata una fortuna che non avessi idea di quanto lei fosse considerata un dio dai francesi. La Vie en Rose, cantata da Grace Jones, ha un grande successo, specialmente nelle classifiche francesi e italiane. Io mi ricordo questo pezzo, modestamente lo ballavo anch'io al Plastic, che era il luogo culto della Milano di quegli anni. E visto che squadra che vince non si cambia, un anno dopo l'Island pubblica pubblica un nuovo album della cantante, album di cover, anche questa volta con un classico francese, con un'altra copertina che ricorda la rivista Interview. L'album si chiama Fame, notorietà, contiene un brano ricavato da una poesia di Prévert, Le foglie morte. E poi nel 1979 esce Muse, sempre sulla falsa riga degli altri due album. Ci sono anche due brani scritti dal nostro, dal grande Stelvio Cipriani. Poi dopo questo disco forse lei inizia a essere un po' stanca dei cliché. Lei è una che si stufa, vuole fare qualcosa di meno impersonale. Peraltro nel frattempo ha anche incontrato un uomo. Questo evento ha messo in circolo una nuova energia. Quest'uomo è un fotografo francese, anche se ha la madre americana. Si chiama Jean-Paul Good. I had a girlfriend who was a girlfriend of hers, and it's a very classic thing. Avevo una ragazza che era amica di Grace. È stato un classico. Lei che viene a cena ed era evidente che le piacevo. E alla fine io ero lusingato del fatto che le piacessi. Lei a quei tempi aveva già fatto un 45 giri, la Via Rouge. L'aveva già fatto, quindi all'epoca era la Healthy Girl di New York, quella famosa. E il fatto che io piacessi alla Healthy Girl, wow, quella sì che era cosa pazzesca. E lei era il tipo che se vedeva una cosa che le piaceva, se la prendeva. E io lasciai che lo facesse. Non ero molto fedele, ma non fu una lenta storia di seduzione, solo due persone che si sono subito messe insieme. La relazione con Jean-Paul Good diventa il classico rapporto dell'artista con la sua musa. E forse però in quel caso i ruoli non sono così fissi, è difficile capire chi è l'artista e chi è la musa, chi sta influenzando l'altro. Di certo il loro incontro segna questo lungo sodalizio che si protrarrà per quasi tutti gli anni Ottanta, producendo molti tipi di lavori, lavori creativi e in un certo senso anche lavori molto sperimentali. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando Grace Jones, donna complicata, complessa, modella, cantante, attrice, simbolo di un'estetica molto particolare che ha caratterizzato tutti gli anni Ottanta, una delle icone degli anni Ottanta, anni che sono stati teatro di una cultura super pop, arrivò l'edonismo reganiano negli anni Ottanta, una cultura che però, vista a posteriori, ha avuto assolutamente una indiscutibile dignità, anche se sono anni dove l'immagine la fa da padrone, prima di lasciare il posto a un reflusso di spiritualità negli anni 90 con il grunge e con altre cose. Grace Jones è pura immagine da un certo punto di vista, però immagine di grande qualità, mai conformista, mai scontata, coraggiosa, trasgressiva, provocante, e aiutata da un fisico particolare, giamaicana, terra di atleti, di corridori, terra di gente con muscoli allungati, fisici, longilinei, 1,80 m, lei che gioca la carta dell'androginia, dell'ambiguità, con una pettinatura che ricorda quella delle reclude marine, completi smoking di ottimo taglio, magari con sotto niente. Quando ho iniziato a fare la modella, alzavo le braccia ed ero tutta muscoli, mentre le altre modelle non ne avevano per nulla. Davvero, pensavano tutti che fossi un uomo, mentre io non dovevo fare niente per avere quei muscoli. È solo genetica. E forse è proprio quel suo fisico statuario che affascina al primo colpo quello che diventerà non solo il suo compagno di vita, ma anche il suo più stretto collaboratore, l'artista Jean-Paul Good, uno influenzato molto per sua stessa missione da quello che lui chiama la Jungle Fever. Farà perfino un libro fotografico di grande successo, un artista, un manipolatore di immagini, uno che ama scomporre e ricomporre le fotografie che scatta, inventa ritratti che hanno sempre meno a che fare col soggetto iniziale. E di fronte alla particolare bellezza di Grace, lui sente di aver trovato il suo miglior soggetto, almeno finché dura. I thought she was just a party goer, with a very relative talent. All'inizio pensavo fosse solo una festaiola con poco talento, fino al giorno in cui andai a sentirla cantare. Non è che la performance mi fosse piaciuta tanto, ma mi piacque lei. Pensai che avesse un grande potenziale. E tanto più diventava famosa e di successo, mentre stavamo insieme, io divenni sempre più geloso e possessivo. Solo che ero molto più possessivo nei confronti del personaggio che, attraverso lei, avevo creato, che verso di lei come persona reale. Lei era soprattutto una donna che voleva romanticismo, che voleva una cosa reale. E arrivò il momento in cui lei non poté più capire quello che ero diventato e, insomma, abbiamo avuto un bambino e poi ci siamo separati, tristemente. We had a child and separated, sadly. I due hanno un bambino quasi subito dopo il loro primo incontro, che avviene nel 77. Nel 79 nasce Pablo, praticamente nello stesso momento in cui la nuova carriera musicale di Grace sta esplodendo e, insomma, riesce anche a essere una super mamma. Intanto, grazie alla art direction di Good, Grace Jones comincia a cambiare la sua immagine, che diventa sempre più estrema. È di Good la fotografia forse più famosa di Grace, quella in cui si vede lei di profilo seminuda con una gamba sollevata all'indietro come lanciata in una corsa folle, solo che il suo corpo non è reale, è verosimile, è frutto di un lavoro certosino di ricreazione, di manipolazione, tagliando, rimontando pezzetto per pezzetto queste varie fotografie. E allora non esisteva Photoshop, era proprio arte e artigianato puri, insomma un lavoro per creare una definitiva fotografia che alla fine non è più fotografia, è opera artistica. Nel libro Jungle Fever, Good arriva a ritrarre Grace proprio come fosse un animale della giungla chiusa in una gabbia. Grace però è tutto tranne che un animale in gabbia. Dopo aver pubblicato nel 1980 un album, forse il suo migliore almeno per quanto mi riguarda, si chiama Warm Leatheret, nel 1981 arriva il disco Night Clubbing. Sulla copertina c'è una bellissima foto di Good che ritrae Grace con i capelli a spazzola, con la sigaretta che le pende al lato della bocca, uno smoking di Armani portato sulla pelle nuda, questo smoking con dei bagliori bluastri. Altra foto super iconica. Il disco contiene uno dei brani più famosi della Jones, Pull Up to the Bumper, che sarà definito uno di quei rari casi in cui si riesce a replicare l'esatta sensazione di essere al centro di una discoteca. E dall'album viene estratta anche un'altra canzone, c'è un brano di Astor Piazzolla, Libertango si chiamava, che viene sovrapposto a un arrangiamento reggae e il risultato è I've Seen Your Face Before, con un bellissimo sottofondo di fisarmonica, con la voce di Grace che a tratti canta in francese. E peraltro i video di tutte e due queste canzoni sono ovviamente girati da Good e ovviamente sono bellissimi. Night Clubbing, successo incredibile, scala tutte le classifiche mondiali e improvvisamente lei diventa una delle cantanti più invitate negli show di tre continenti almeno. E naturalmente non può che rimanere fedele al suo personaggio. Durante uno di questi show un conduttore di nome Russell Hart verrà schiaffeggiato violentemente da Grace solo perché ha osato rivolgerle le spalle. Indossa profumi? Si può sentire il suo profumo? L'odore naturale del mio corpo è il mio profumo. Cerchiamo di mantenere alto il livello della conversazione. Se continui a voltarmi le spalle un minuto di più, stai andando avanti da troppo tempo. Beh, andremo avanti ancora 6 minuti, quindi ci sarà tempo anche per lei. Me ne vado. No, non se ne vada, a meno che non lo voglia davvero. Non mi dare le spalle. Non si guardi. Ferma. Hold on, just a moment. Just move your chair back. Eh sì, questo era il sonoro, andatevelo a vedere su YouTube. Intemperanze proverbiali quelle di Grace, lei ha un carattere lunatico, insomma ai limiti della maleducazione forse, ma in realtà lei fa quello che vuole quando vuole. Le sue abitudini non sono proprio sanissime, sono abitudini tipiche degli anni 80, stiamo parlando per esempio anche della droga che lei sperimenta molto liberamente, gli anni 80, anni della cocaina. Lei in realtà preferisce gli acidi, che considera più sperimentali, che migliorano la percezione, secondo lei, secondo molti. Una volta ho preso degli acidi per 3 giorni consecutivi. Si chiamava la pillola del super viaggio, STP. Adesso non lo fanno più. Non ci sono stati effetti negativi, anche perché a quei tempi ero sotto cura dei medici. L'ho fatto per sperimentare, non per divertirmi alle feste. Era per aprire la mente. Questa era la ragione per prenderlo. Se lo prendi solo per le feste, finisci per stare solo male. Night Clubbing viene seguito da Living My Life, registrato nelle Bahamas, vicino alla sua Giamaica, siamo nell'82. Poi lei fa dell'altro per qualche anno, per esempio nell'84 partecipa a Conan il Distruttore, non il Barbaro, Lei interpreta Zula, che è una guerriera. Nell'85 recita nel film di Bond, interpretato all'epoca da Roger Moore, bersaglio mobile nel ruolo della cattivissima Mayday. Diciamo che lo sguardo assassino non le manca. Nell'85 torna a registrare e arriva un altro pezzo di storia, il suo 7° disco, Slave to the Rhythm, prodotto da Trevor Horn. Si dice che inizialmente lui volesse lavorare a questo progetto per i Frankie Goes to Hollywood, di fatto invece esce come monumento, ennesimo monumento di Grace Jones, un vero e proprio concept album dove la title track, la canzone Slave to the Rhythm, viene declinata in tanti modi diversi. E il fil rouge dell'album è proprio una lunga intervista a Grace, è una specie di lunga conversazione sulla sua vita. Album bellissimo, Slave to the Rhythm, sofisticato, copertina sempre ovviamente di Good, dove nella foto il collo e la bocca di Grace vengono replicati più volte fino a diventare enormi, diciamo tra Modigliani e il futurismo e il 2000. Insomma, Grace è ovunque, in televisione, nelle discoteche, che è sul piatto di milioni di giradischi, in radio, su centinaia di palcoscenici, nei talk show del momento, ovunque lei se la ride, contribuisce a costruire la sua immagine di donna eccessiva, folle, incontrollabile. Per esempio è celebre la sua passione per le ostriche, che dice di mangiare in grande quantità assieme allo champagne. Beh, sono buone le ostriche con lo champagne, eh? Non si mangiano le ostriche con il vino rosso, no, no. Non si fa. Adoro un buon vino bianco con le ostriche. Nota bene che ancora non ne sto mangiando. Le ostriche mi servono per guadagnare l'energia. Le ostriche mi tolgono la depressione. È un afrodisiaco, non lo sapevi? Se ne mangi 4 dozzine inizi a correre ovunque in giro in cerca di qualcosa di caldo da portarti a casa. Portate dunque le ostriche, vedrete. Inizierete a ululare alla luna. Il falco. Il gabbiano. Il gabbiano. Il gabbiano. E come abbiamo detto prima, Slave to the Rhythm diventa l'ennesimo clamoroso successo per Grace Jones. Anche il video della canzone viene consegnato alla storia, festa di colori, di immagini che riflette tutto il meglio della cultura visiva degli anni Ottanta. E i concerti sono in stile, tripudio di colori, invenzioni, vestiti folli, esagerati trucchi, pettinature. Good, ovviamente, è il grande burattinaio di tutto questo. Memore forse dei suoi corsi di teatro, Grace non vuole essere solo una cantante, vuole essere un'artista completa, libera di attraversare trasversalmente generi, mondi molto diversi tra loro, e questo le è possibile proprio grazie anche a degli incontri. Per esempio Good è la chiave di tutto questo, come scrive Jack Hall, un giornalista, in occasione dell'inaugurazione di una mostra su di lei a Milano. Good Hollywood considera Grace Jones un veicolo artistico, una iperbole, ma anche se ha distrutto la loro relazione personale, gli ha permesso di tradurre la visione grandiosa di questo fenomeno, del fenomeno Jones, di tradurla anche in una serie di immagini che l'hanno dipinta come una musa irreale, impossibile, insomma, in poche parole una icona. Grace sta vivendo tutta la sua vita costantemente sotto i riflettori, anche per quello che riguarda le sue storie d'amore, perché la storia con Good è finita, ha una relazione con la sua guardia del corpo svedese e gli regala una parte nel suo film di Bond, dove interpreta un ufficiale sovietico, e quando lo lascia il fidanzato guardia del corpo ormai è un attore a tutti gli effetti e sarebbe Dolph Lundgren. Tutti lo ricordiamo in Rocky per la famosa battuta "ti spiezzo in due". Poi nel 96 sposa un turco, anche questa unione è destinata al fallimento, anche se per anni non riesce a divorziare perché il marito sparisce letteralmente, non si fa più trovare. Poi continua a scandalizzare in televisione con dichiarazioni provocatorie come quella nel programma di Joan Rivers, che è una famosa conduttrice americana. Well, I'm ready to have another child. Sono pronta per un altro bambino. Chiesi a Jean-Paul, a quel tempo stava con un'altra donna, se poteva aiutarmi a fare un'inseminazione artificiale. Perché nostro figlio è uscito fuori così bene, fa così bene alla mia vita, mi ispira, è così bello, è il nostro perfetto mix. E in 9 mesi può avere una sorellina o un fratello. Il risultato è che mi rispose: Gesù, perché devi essere sempre così eccessiva? Why do you have to be so extreme? Alla fine degli anni Ottanta anche la grande Grace Jones comincia a essere un po' stanca. Dopo l'ottavo album Bulletproof Heart, che esce nell'89, lei tace per 20 anni, e i tempi, lo abbiamo detto prima, sono cambiati, l'edonismo, le luci degli anni Ottanta stanno lasciando il posto ad altre prese di coscienza. D'altra parte la musica, la moda, lo stile sono fatti così, a correnti alternate. Partecipa però a un'edizione di Sanremo e in coppia con Renato Zero canta in inglese la canzone Spalle al muro nel 91 sul palco. Una sera canta vestita da donna, un'altra si presenta vestita da uomo con i baffetti disegnati sulle labbra carnose, con una cravatta al collo. Terzo straniero della serata viene dalla Giamaica, è diventata una regina afrotecnologica. Avete capito che parliamo di Grace Jones. La sua immagine sempre sorprendente è ormai un mito nella musica e nella moda, grazie anche ai video di Jean-Paul Good, che hanno fatto del suo stile una leggenda. Grace Jones è abbinata fuori gara a Renato Zero. Ho il grande onore di presentarvi una grande amica e una grande interprete, signore e signori, Grace Jones. La canzone di Renato Zero, Spalle al muro, nella versione inglese è stata intitolata Still Life. Dirige l'orchestra il maestro Bert Dovo. Good luck. Grace Jones. E poi non pubblica più dischi, ma rimane una figura chiave del jet set internazionale. Magari partecipa a qualche sfilata privata da Louis Vuitton, per esempio, per altri stilisti, viene invitata a grandi eventi, grandi feste, e lei è imponente, non si può rimpicciolire la sua presenza quando si muove, insomma, si muove lungo i solchi di una regina. Se va ospite a un matrimonio, per esempio, non è che va ospite dal cognato giamaicano, va ospite da Schwarzenegger che impalma la nipote dei Kennedy, e ci va in compagnia di Andy Warhol. Nel 98 torna alla musica con un disco, con un tour intitolati Hurricane. Nella band c'è il figlio Paolo, che peraltro l'ha già resa nonna. Non voglio pensare ai pianti che si sarà fatto il nipotino di fronte a una nonna così impegnativa, ma anche delle risate, perché con una nonna come lei, che così bene si è mossa nella scacchiera della vita, ma matta come un cavallo proprio, però anche veloce come un alfiere, e soprattutto regina nell'animo, concluderei con un articolo scritto sulla rivista W da Kyle Manzenrider, che dice: se Cher ha scritto il primo volume del manuale come diventare una moderna pop star, Grace Jones ha scritto il secondo volume, e tutti, da Madonna, Bjork, Beyoncé a Lady Gaga, ne hanno copiato ben più di qualche pagina. Tra scandali, personalità, fisico imponente, grandi canzoni, grandi progetti e trasgressione, i colpi d'ala di Grace Jones sono stati veramente tanti e molto luccicanti. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.